24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7:20, buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua in diretta fino alle 9 con Paolo Corleone in regia anche oggi, questo venerdì 3 giugno. Di cosa parleremo nel nostro sondaggio? Alle 8:30 vi parliamo di questo calcio scommesse che rischia davvero ancora di terremotare il mondo del calcio. Vi chiediamo di votare sul sito radio24.it. Secondo voi il mondo del calcio è ancora credibile? Che ne pensate? Votate lì. 24 mattino. L'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:22 minuti. Voglio salutare il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro. Buongiorno e ben ritrovato, Di Pietro. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Senta, i quattro referendum, voi vi siete molto spesi per la raccolta delle firme, si voterà il 12-13 giugno. Le chiedo subito, sono referendum su contro Berlusconi, come qualche giornale scrive? Vi prego, prego tutti gli ascoltatori di riflettere. Stiamo parlando di temi che prescindono da questo o quel governo, da questo o quel colore politico. Stiamo parlando di acqua, aria e legalità. Cioè, vale a dire, di temi che serviranno e riguarderanno il popolo anche fra mille anni, dove non ci sarà più né Di Pietro, né Berlusconi, né l'Italia dei Valori, né il Popolo della Libertà. Dobbiamo soltanto decidere se è meglio vivere in un paese in cui le centrali nucleari ci sono o non ci sono, con tutti i rischi che comportano, le opportunità di una soluzione diversa. Se è meglio che l'acqua, in quanto bene fondamentale, lo possono avere tutti, non solo quelli che lo possono pagare, e se possiamo vivere in uno stato di diritto in cui la legge è uguale per tutti e quindi è bene che tutti la rispettino. Però molti giornali li scrivono, i titoli, l'ha letto anche lei, abbattiamo Berlusconi, un altro sforzo contro Berlusconi. Io sono quello che ha promosso, almeno per il legittimo impedimento e per il nucleare, ho promosso il referendum, quindi l'Italia Valori è il comitato referendario. Bene, noi del comitato referendario abbiamo tolto il cappello da questa voglia di abbattere o non abbattere, perché, torno a ripetere, anche colui che si riconosce nel governo Berlusconi, anche colei che riconosce questa maggioranza berlusconiana, ha interesse a dire la propria in relazione al fatto che vicino a casa sua o in Italia ci sia o non ci sia una centrale nucleare, che un domani qualcuno della sua famiglia possa bere sempre l'acqua, anche se non può pagarla, e che sa di poter contare sulla giustizia uguale per tutti. Quindi non c'entra niente Berlusconi o no. Senta, le chiedo, Di Pietro, se non dovesse arrivare il quorum, una cosa che nei referendum si sa è abbastanza, succede abbastanza spesso, soprattutto negli ultimi anni, e lei cosa accuserà, per esempio, la scarsa informazione, la mancata informazione in TV? Guarda, io credo che un diritto così fondamentale, quello del cittadino, di poter lui decidere, capisci, lui decidere il proprio futuro facendo vivere o morire una legge, sia così importante che davvero dobbiamo invitare tutti i cittadini ad andarci. Ci sono alcuni cittadini che dicono, vabbè, io mi astengo. Ecco, astenersi e rinunciare, perché non dire la propria, e lasciare che gli eventi vadano come vadano. Noi abbiamo già un problema, una legge che solo in Italia è prevista in questo modo. Pensate, si può cambiare la Costituzione con un referendum, ma soltanto diciamo così con il 51% di quelli che vanno a votare, e invece per fare un referendum normale, non costituzionale, ci vuole addirittura il 51% degli aventi diritto, compreso quelli che stanno all'estero, 3.200.000 persone. C'è il fatto già che queste persone che sono all'estero non riescono a votare. Allora io l'appello che faccio non è dire ce la facciamo o non ce la facciamo a raggiungere il quorum. È una sconfitta di tutti non raggiungere il quorum, perché, ripeto, è una materia che interessa tutti, è una materia che non ha colore, non è di destra, di centro, di sinistra, ma che attiene allo Stato di diritto, alla vita futura delle nostre questo generazioni. Sì, ma la appassiona questo dibattito che c'è in TV, nessuno ne parla, la RAI non fa servizio pubblico, oppure no, dice non è la TV. Ripeto, io sono quello che le ha promosso il referendum. Se avessi dovuto pensare, ma mi daranno o non mi daranno lo spazio, ma me le ammetteranno o non le ammetteranno, cioè voglio dire, io mi sento in questo momento come il naufrago in mezzo al mare che vorrebbe può arrivare, arriva. E allora, più che preoccuparmi di quanto la TV non, come si dice, non informa, sì, ringrazio voi che intanto voi avete informato, e spero che fra un quarto d'ora qualcun altro mi chiama per poter informare, e comunque sia fra mezz'ora sto in mezzo a un mercato a informare i cittadini per dire ricordatevi. Vabbè, vale più il mercato della TV, insomma, anche questo potrebbe essere il problema. Una... di fondo è che la TV ti servono 20 milioni di persone, per il mercato 20. Ecco, infatti è per l'appunto. Un'ultima cosa, senta, 2 anni fa pare spuntato un video nel quale Bersani diceva no, ci vuole la privatizzazione dei servizi idrici, è una cosa positiva. Che fa? Cambiato idea? Lei che adesso sente molto Bersani. A parte il fatto che non cambia idea soltanto lo stupido, ma torno a ripetere, il cittadino oggi deve decidere non in base al cambio idea di Bersani, ma lui guardandosi allo specchio, lui o lei guardandosi allo specchio e mentre lì esce dal rubinetto l'acqua e deve dirsi ma quest'acqua io la devo avere, intanto la pago, o se non la pago questa mattina non bevo. Ecco, se si pone questo problema e non riflettere sul fatto che Bersani abbia cambiato o non cambiato idea, a me pare che sia la cosa migliore. Intanto la ringrazio, buona giornata per essere stato con noi, Antonio Di Pietro, leader dell'Italia dei Valori, e noi ci fermiamo per la pubblicità e meteo e poi parliamo di questo scandalo nuovo, calcio scommesse, quante volte ritorna periodicamente questo tema e pare che si stia alzando il livello, pare che anche la Serie A ora possa essere interessata, partite di Serie A, è stato fatto anche un nome di un giocatore importante in una intercettazione, vale a dire De Rossi, capitano, giocatore importante della Roma, non capitano, ma giocatore anche importante della nazionale. E, insomma, noi vi chiediamo, il calcio italiano, secondo voi, è ancora credibile dopo questo ennesimo scandalo che si profila all'orizzonte? Votate su Radio24.it, ne parliamo tra poco, se volete intervenire in diretta, 800 24 00 24. 24 mattino. Alle 8:33 minuti, eccoci qua a parlare dunque di questo calcio scommesse nel tema del nostro sondaggio di oggi. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Basta leggere i titoli dei quotidiani, non solo della Gazzetta dello Sport di oggi, verifiche anche sulla Serie A, oppure sul giornale quello stranissimo Genoa-Roma 4-3. Quanti dubbi sul Cagliari e sui pareggi in B? Da 1.000 a 20.000 euro il costo dei giocatori infedeli e il CT azzurro della nazionale. Prandelli, che è intervistato da Repubblica, dice: nel calcio ci sono troppe tentazioni, ci sono anche troppi tipi loschi che girano. E ora si alza il tiro anche parlando di mafia e si alza il tiro anche parlando in questo nuovo calcio scommesse, rischio calcio scommesse di Serie A. Allora, la domanda che vi poniamo, detto questo, è: secondo voi il calcio italiano è ancora credibile? E devo dire che votando su Radio24.it, forse sull'onda anche di tutti questi titoli, titoloni del nuovo scandalo, l'83% di voi per il momento dice di no. Comunque, ne vogliamo parlare con un giornalista e scrittore, giornalista del Fatto, Oliviero Bea. Buongiorno e ben ritrovato, Oliviero. Buongiorno, buongiorno a tutti. Così come saluto uno dei decani dei cronisti sportivi, a Mediaset, Sandro Piccinini. Buongiorno e benvenuto. Ciao Alessandro, un saluto anche a Oliviero. E saluto anche il nostro Dario Ricci, che ci aiuterà a capire qualcosa di più. Dario, buongiorno, eccoci. Ciao Alessandro, un saluto a tutti gli ospiti. Eccoci qua. Allora, Oliviero Bea, oggi sul Fatto Quotidiano scrive un articolo dal titolo La cronica usura del pallone. E Bea dice: stupisce come tutte le figurine del presepe calcistico si stupiscano, stupisce lo stupore, no? Come se vivessero, fingessero di vivere in un altro mondo. Allora, Bea, dobbiamo pensare che quando vediamo una partita di calcio vediamo tutto truccato? Ma insomma non è una storia nuova, se vogliamo dirla tutta. Naturalmente cambiano i protagonisti, cambiano quasi tutti i protagonisti, perché qualche nome di questa vicenda l'avevamo già visto in passato, ma pur non essendo una storia nuova, c'è qualche cosa che colpisce adesso, e cioè che non imparino mai e che non ci siano abbastanza controlli. Cioè non imparano mai, perché per esempio il clamore dello scandalo del 2006 di tutt'altro tipo, quello di Calciopoli, di cui ancora si aspetta, a dir la verità, una parola di verità, di chiarezza, perché non credo che ci sia nessuno dotato di buon senso in Italia possa pensare che le cose siano andate così o soltanto così come ce l'hanno raccontate 5 anni fa. Questo è il primo punto. E il secondo punto è chi deve fare i controlli, cioè perché in altri paesi, anche se le scommesse clandestine, le chiamo clandestine per una sorta di riflesso condizionato. Sì, in realtà sono tutte alla luce del sole. Scommesse legali in un mondo illegalizzato, cioè in cui si truccano le cose. Perché in altri paesi, anche se è un problema planetario, ormai si vede la mafia russa, la mafia giapponese, coreana e via dicendo, fanno le stesse cose, ma perché noi siamo messi peggio e non riusciamo a risolverlo mai? Addirittura la questione deflagra, dilaga, perché nelle notizie di oggi parlano di altri giocatori, già sì, si affacciano dei nomi di giocatori anche della nazionale e via dicendo. Per un motivo molto semplice, che non è credibile il timone, il governo del calcio, cioè la classe dirigente, io lo scrivo in questo articolo, che fra l'altro coincide in buona parte con la classe dirigente di questo paese. Se cioè non funziona la federazione, la Lega, la procura federale, quella la cosiddetta giustizia sportiva, e vi preannuncio che nei prossimi giorni ci sarà un altro scandalo che riguarda proprio la giustizia sportiva, e beh, se non funzionano i controllori, perché dovrebbero funzionare i controllati? Beh, questo poi questo ce lo dice poi del nuovo scandalo, però teniamolo un po' così. Se ci dice, sì, ma io lo tengo, se volete addirittura non ne parlo, ma non è questo. È solo un modo per arrivare a dire che purtroppo non funzionano i controllori. Perché non parlarne? Comunque, Sandro Piccinini, voglio dire, uno che il calcio lo segue da lì dentro da tanti anni, che si deve pensare quando si leggono effettivamente, siamo ancora reduci dalla vicenda Calciopoli ed ecco qui, già travolti da un'altra vicenda che appare simile. Allora, io allargherei il discorso che ha cominciato Oliviero, cioè se non funzionano i controllori, ovviamente perché poi stupirsi di quello che accade? Allarghiamo pure il discorso all'Italia, cioè se ci sono organizzazioni criminali tipo la mafia, la camorra, l'andrangheta, che come ben sappiamo hanno fatturati di miliardi, svariati miliardi di euro, perché dovrebbero disinteressarsi, diciamo così, del mondo del calcio? Perché il calcio dovrebbe rimanere fuori dai loro interessi, visto che nel calcio, da quando soprattutto sono state liberalizzate le scommesse, girano ancora più soldi di prima? Ecco, quindi io non mi stupisco, tanto per unirmi alla tua introduzione, sottolineo alcune piccole differenze rispetto all'ultimo scandalo, quello che è sfociato poi nella richiesta di anni di galera per dirigenti arbitrali, dirigenti federali, massimi dirigenti di squadre importanti, no? Il processo di Napoli. La differenza qui è che si sta parlando, tanto per circoscrivere un po' il problema, almeno allo stato degli atti di oggi, di stamattina, non sono coinvolti arbitri e non sono coinvolti massimi dirigenti di squadre importanti, certo, diciamo così. Quindi qui la differenza è che si va a pescare nel mondo il tra calciatore, magari dei disperati, cioè di serie B, C. Ieri è uscito un importante lavoro del Sole 24 Ore sui debiti delle nostre società. Allora è lì che si va a pescare, giocatori che non percepiscono stipendi da mesi, situazioni disperate come quella del portiere Paoloni inseguito dagli usurai, è chiaro che lì la criminalità pesca con più facilità. Ma infatti, cioè, come oggi si racconta, anche oggi il Sole si concentra su questo, sui conti del calcio, e poi a raccontare che bastavano per esempio una partita, pare secondo l'accusa, 1.000 euro per comprare 10 giocatori, cioè 1.000 euro a testa, perché erano giocatori, secondo l'accusa del Benevento, che non prendevano soldi esatto. E quindi. Però Sandro, chiedo, voglio dire, non voglio essere in un mondo di verginelle, ma insomma quando si parla di calcio si parla anche, quindi non siamo in un mondo di verginelle, sappiamo che la criminalità va dove ci sono affari, ma quando si parla del calcio si parla anche di emozioni, di passioni, di qualcosa che coinvolge milioni di italiani che seguono alla TV sperando di vedere un gioco appassionante, trascinante, nel quale si investe anche tutta quella sfera emozionale che dice che diamine, se ci tolgono e ci toccano anche il calcio, vabbè, allora. Hai ragione, però anche qui basterebbe alzare lo sguardo su quello che è successo nelle recenti elezioni per il presidente della FIFA, con i voti comprati, con degli scandali incredibili. Basterebbe andare a vedere anche, insomma, quello che succede in altri sport molto popolari come il ciclismo. Quindi, insomma, veramente è la società che ci circonda che è così. non esagererei sul discorso, allora tutte le partite tutte che così, vediamo no? sono finte, no, no, perché, no, perché comprare un giocatore di Serie A che guadagna 5 milioni di euro con 1000 euro è un po' più dura, no, insomma, poi secondo me. Poi devo pensare che lo scudetto del mio Milan quest'anno non sia regolare, questo non voglio pensarlo manco per mezzo secondo. Allora, Dario Ricci, io vorrei capire, Dario, che cosa può succedere? Perché oggi, appunto, pur non essendo indagato, il PM titolare l'ha detto, ma è spuntato anche il nome di De Rossi, lo facciamo, tanto è su tutti i giornali, nel senso che due indagati parlano dicendo gioca pure, scommetti pure su, ho parlato con De Rossi. Ecco, non vuol dire nulla, può darsi che stessero millantando delle cose. Però che può succedere? Si parla di Cagliari, Atalanta, promozioni che potrebbero saltare, c'è un terremoto in arrivo? Ma io credo che al di là di quello che sono le considerazioni fatte finora e soprattutto il parere anche espresso dai vertici ad esempio della Serie B, i campionati attualmente che pure sono entrati nella fase dei play-off, delle promozione, la stessa cosa vale per la Lega Pro, siano subiudice in questo momento, perché è chiaro che questa inchiesta può ribaltare assolutamente i verdetti del campo. Chiaramente sono confini tutti da definire, bisognerà vedere i tempi, e in questo la Procura federale tra i suoi limiti ha dimostrato anche quello di non avere una tempistica particolarmente rapida, anche se in questo caso ha già richiesto l'acquisizione degli atti, e chiaramente dal punto di vista sportivo, Alessandro, la grande incognita è proprio quella dei tempi. È chiaro che facciamo l'ipotesi in cui dovessero essere messe in discussione le proprie opzioni di Atalanta e Siena, verrebbero in quel caso ripescate le squadre della Serie B direttamente classificate ai certo. posti successivi in classifica, ecco, in quel punto, quindi va esclusi all'ipotesi di ripescaggio ad esempio della Sampdoria, ecco. Questo va assolutamente escluso. I tempi devono essere rapidissimi, anche perché la stagione poi riparte mezzo, altrimenti riparte la stagione tra un mese e mezzo, è tutto da vedere, è il confine estremo dell'indagine, perché appunto finora sulla Serie A forse ancora non è uscito tutto, anzi certamente, soprattutto a vedere, a rivedere un attimo quello che si è visto nelle ultime giornate di campionato, forse ce n'è da lavorare anche sì. lì. Tra l'altro io, ma pare che sui giornali ci sia scritto appunto i pareggi del Cagliari. Vorrei chiedere, Oliviero Bea, come ha detto Sandro Piccinini, cioè a me pare anche dal profilo delle intercettazioni che sono apparse, un'inchiesta che voglia più pescare appunto in ambienti un po' così, non vorrei usare parole molto brutte, un po' disgraziati, cioè persone che non hanno lo stipendio, di serie minori, persone che erano in difficoltà per problemi loro finanziari, cioè non è questo in qualche modo un qualcosa che ci può salvare, cioè a dire non è una cosa di sistema più strutturata, ma è un qualcosa di volersi infilare in delle situazioni di disperazione e sfruttarle. Beh, non so se in questo caso parla il collega o il tifoso del Milan, dunque il punto credo che sia stato centrato da Sandro, che approfitto per salutare. E dunque, allora, anche volendo, non credo che si potrebbero permettere di truccare tutte le partite, per un semplice motivo, che ci vorrebbe comunque un volume d'affari e un'organizzazione assoluta, che non mi pare, che non vedo in giro. Non c'è un grande vecchio definitivo, uno, per il calcio, almeno per il calcio, e due, un minimo di credibilità, come vedete, se lo devono conservare, se lo sono conservato per Calciopoli, ripeto, tutto da vedere. Io ho cominciato a parlare di scommesse, Sandro è giovane, molto giovane, ma se lo ricorderà, nel 1980 ho tirato fuori io le scommesse famigerate di Paolo Rossi e compagnia bella, per cui diciamo così, non è che rivendichi nessuna royalty di memoria, dico solo che insomma conosco il genere. Allora, da un lato secondo me c'è un degrado del concetto, nell'articolo che citavi c'è tutto il discorso dell'usura nei due sensi, dei cattivi esempi da Blatter a scendere, della FIFA, dei troppi soldi che girano, e questo Prandelli l'ha rimarcato con nettezza, essendo uno che viene dal basso, è una persona seria, Prandelli è una persona immacolata, poi si può discutere su altri piani, tecnicamente o non tecnicamente, ma insomma è una persona per bene fino a prova del contrario, e dice attenzione alla corruzione, i soldi fatti Faci hanno cambiato quasi il genoma del calciatore, e questo quindi va oltre la tua domanda. Purtroppo è tutto il sistema calcio che, in un sistema paese che fa acqua da tutte le parti, si è adeguato perfettamente sia con la delinquenza organizzata sia con una sorta di mutazione antropologica, cioè il calciatore non ragiona più nei termini del calciatore di una volta, ragiona, io nel mio articolo lo dico perché riguarda la A, vedremo, la B senz'altro, la C1 o ex C1, ex C2 pure, anche la Lega Dilettanti, dove girano dei bei soldi, quando girano soprattutto nel centro-sud, ma non solo, e ne ho parlato appunto in questo articolo. Beh, c'è usura da tutti i punti di vista, usura nel senso stretto delinquenziale del termine, ne parlavi prima a proposito di Paolone, via, cioè, usura come concetto, come tenuta del sistema, usura, ripeto, nell'etica generale, nel funzionamento, nell'efficienza del sistema. Quando tu citi i dati del Sole 24 Ore, che sono perfetti, e si inseriscono in una crisi di sistema che è economico. Qui però, ed è appena stata nominata la giustizia sportiva, ecco qui che, mentre la giustizia penale ha i suoi tempi e le vediamo a carissimo amico, come si dice, per i soldi, i problemi della lentezza della nostra giustizia ordinaria, che andrebbe riformata, anche se non nel senso che dice, che intende il Presidente, Pena, tanto per chiamarlo così, la giustizia sportiva è incaricata di far pulizia. E torniamo al mio discorso iniziale. Non lo fa. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, voglio sentire che ne pensano Enrico da Modena. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Ma io faccio un pensiero. In un mondo in cui, anche andando a giocare in nazionale, si prendono dei soldi, non ci può essere una misura in queste cose. Se ci vado io a giocare in nazionale, guardi gratis. Che però, Enrico, paradossalmente, almeno legge dall'inchiesta, venivano comprati quei giocatori che anzi prendevano meno soldi, cioè più si scende di categoria, magari senza stipendio, in difficoltà, eccetera. A giudicare dai nomi che sono volati, sembra che comunque di soldi ne prendessero tutti, e sono comunque convinto che ne prendono più di me. Ci posso mettere questo sì. Allora, io mi chiedo, ero simpatizzante per la Juve, sì, e da quando c'è stato quello scandalo con le flebo di Cannavaro, di non so chi, non mi ricordo adesso di precisi nomi, poi Moggiopoli, tutte le varie cose, ho smesso, basta. Ha smesso. Ma non si può più. Va bene, lei dice: io ho annullato questa mia parte emozionale, è stata annullata da questa inchiesta. Grazie Enrico. Voglio andare alla provincia di Grosseto da Davide, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Volevo dire che questo è indicativo, tutta questa faccenda, di un vizio e un vezzo tutto italiano, appunto, di esasperare certi ambienti, per cui proprio si vive, no? E gli atleti, ma anche, devo dire, i tifosi, tutti questa esasperazione ormai del calcio, che va ben al di là ovviamente dell'evento sportivo. Il problema però, io volevo andare anche oltre quello che diceva Bea, che giustamente diceva dei controllori che forse non controllano così bene, quindi garantiscono semmai una certa impunità, no? Di coloro che ovviamente poi si ritrovano coinvolti in queste faccende, ma diciamo anche tutti coloro che in qualche modo collaborano a questo ambiente, ma anche i tifosi stessi, forse hanno delle grosse colpe. C'è questo problema che noi non riusciamo forse proprio a stupirci. Io sentivo i suoi ospiti che dicevano: non ci stupiamo di niente. Forse questo è il problema, che bisognerebbe stupirsi di più. Davide, intanto la ringrazio. Vorrei chiedere a Sandro Piccinini se c'è davvero questo rischio che poi la gente si disamori, e se c'è già stato, visto che giri per gli stadi, incontri tante persone, tanti appassionati tifosi, o se siamo sempre un popolo di, tra virgolette, imbesuiti del calcio, che poi dopo diciamo: vabbè, ma chi se ne frega, poi voglio andare a vedere la partita, al derby. Oppure c'è un rischio concreto di persone che si disaffezionino poi a questo sport? No, io direi che questo rischio non c'è, e aggiungo purtroppo, perché evidentemente la passione per il calcio è tale che ha alimentato anche il discorso delle scommesse, perché in qualche modo c'è anche una base, diciamo così, popolare che fa crescere poi le somme dedicate alle scommesse. Io volevo aggiungere due considerazioni rapide su quello che dicevate prima, intanto rendendo atto a Oliviero che appunto molti anni fa intitolò un suo libro scritto col professor Ferrarotti all'ultimo stadio, e fu abbastanza profetico su quello che poi è successo nel nostro mondo, e per questo, come dire, il nostro stupore è minore forse rispetto a quello di alcuni tifosi. Però no, due considerazioni tecniche sul discorso dei mancati controlli dell'ufficio indagini, che adesso è nella bufera ancora una volta per questo, però bisogna, come dire, sempre considerare, facendo un parallelo anche col sistema Italia, che per fare i controlli ci vogliono i mezzi. Ci vogliono soldi, ci vogliono le persone, e da questo punto di vista, come dire, la Federcalcio investe pochissimo, quindi lì è un discorso proprio di organizzazione, di struttura che non funziona e ormai è acclarato da anni. L'altro discorso invece, per come dire, sottolineare ancora una volta il livello di questo caso, è fotografato bene dalla vicenda di Cremona, del tentato avvelenamento, sì, di questi giocatori. Quello è clamoroso, c'è, cioè, uno, ecco, che mette il sonnifero per far perdere. Siamo a livello di Totò e Peppino, siamo proprio a livello di farsa. Anche la disperazione di una persona, se l'ha fatto, ecco, se sarà, cioè, che arriva a fare questo. Cosa ci dice questa cosa? Intanto lui avvelenò, o tentò di avvelenare, di stordire i suoi compagni nell'intervallo per far perdere la Cremonese, perché c'erano molti soldi sulla sconfitta o anche sul pareggio, e invece la Cremonese vinse. Quindi questo dimostra subito una cosa, che non è tanto facile taroccare queste partite, lo dimostra il fatto che 18 partite sotto inchiesta, almeno allo stato dei fatti oggi, sono 18 le partite, sì, sotto inchiesta, 8 sono terminate con risultati, diciamo, diversi, così, non graditi dall'organizzazione. E quindi ricordiamo anche, diciamo così, il fattore millantato credito. Mm-hmm. La disperazione, come nel caso di Paoloni, porta in molti casi, a cominciare per esempio dal famoso Interlecce, al millantato credito. Mm-hmm. Quando si dà per certo un risultato che si può ritenere magari probabile, cioè la vittoria, mm-hmm, larga dell'Inter, e invece non c'è nessuna, non c'è certezza. Nessuno. Sì, voglio dire, facendo una battuta, è più facile comprando l'arbitro, ecco. Quello che ho detto all'inizio, cioè lì allora siamo, oppure i portieri, non a caso sono considerati spesso il ruolo più delicato. Certo, anche se nella Serie A è molto più difficile, perché hai 20 telecamere addosso, e se fai un errore, diciamo, sì, di volontario, sì, è più difficile poi da spiegare. In 30 secondi, se riusciamo, Dario Ricci, ma poi bisognerebbe fare anche una considerazione a questa cosa delle scommesse, da quando, da qualche anno, si può scommettere in maniera legale, e poi, cioè, quando io leggo sospese le puntate su una partita per eccesso di scommesse, beh, già per me quello, voglio dire, non è una prova, non sarà una prova giudiziaria, ma apro gli occhi così e dico, e che vuol dire questo se tutti puntavano sul risultato? Dario. Beh, sicuramente, diciamo, una cosa che a posteriori i sistemi di controllo in qualche modo funzionano, soprattutto per quanto riguarda le agenzie di scommesse, no? Che hanno dei feedback abbastanza precisi e riescono a posteriori a leggere, a decrittare movimenti sospetti. Sottolinea Alessandro che il tema è talmente caldo che di fatto è all'ordine del giorno dei lavori del CIO ormai da mesi, siamo a un anno dalle Olimpiadi di Londra, puoi immaginare, tu che sei appassionato poi di tennis sai bene quanto l'argomento abbia certo, investito proprio lo sport che tanto ami. Un ultimo spunto, visto che parlavamo di buone letture, suggerisco di sfogliare un ottimo libro del collega Daniele Poto, Le mafie nel pallone, che ci aiuta a capire quanto il problema, se arriva a toccare i vertici, è assolutamente dilagante alla base del movimento. Allora, io nel ringraziare tutti, Oliviero Bea, giornalista e scrittore, Sandro Piccinini, giornalista di Mediaset, nostro Dario Ricci, che dire, continuiamo su Facebook la nostra discussione, 24 mattino, ci trovate lì, potete anche scriverci 24 mattino e tradio24.it. E devo ringraziare anche Elisabetta Fusconi, Franco Piantanida, oggi in redazione, qui ad assisterci, col nostro Paolo Corleoni in regia. Che dire, diamo la linea a Oscar Giannino e noi ci troviamo, oggi è venerdì, ormai ho perso il conto, lunedì, normale, alle 7:20. A lunedì.